in primo piano. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi lunedì 30 dicembre, siamo al penultimo giorno dell'anno, gli ultimi due giorni vi farò compagnia. Sono Gianfranco Fabi con la rassegna stampa. La rassegna stampa, guardando i giornali di questi ultimi due giorni, cominciamo da quelli di oggi e vi do un consiglio: se non avete letto i giornali durante quest'anno, leggeteli almeno in questi ultimi due giorni, anche perché c'è un riassunto di quello che è successo nel corso dell'anno. Già oggi molti giornali cominciano a ricordare i fatti clamorosi di quest'annata, dalle dimissioni del Papa e la nomina di un nuovo Papa, ai tanti fatti politici che sono venuti, alla morte di Mandela, un grande personaggio, tanti altri avvenimenti, ecco, sono ripercorsi in molti giornali tra oggi e domani. Soprattutto domani probabilmente ci sarà un grande show finale di ricordo di questo 2013, guardando un po' in avanti al 2014, cosa potrà essere l'anno che verrà. Ognuno vedrà dalla propria parte come giudicare l'anno che verrà. Iniziamo guardando un po' le prime pagine. Sono tanti gli argomenti, nessuno spicca sugli altri, quasi tutti hanno una fotografia di Michael Schumacher, il campione tedesco, avete sentito anche dai nostri notiziari, è in coma, è in gravi condizioni all'ospedale di Grenoble dopo una caduta sugli sci, che dopo aver sfidato la morte nella Formula 1, ha avuto un incidente sciando, ha battuto la testa contro una roccia, è stato ricoverato immediatamente in ospedale, è stato operato, ma le sue condizioni sono molto gravi, sono critiche. Quindi il giorno, il dramma, lotta per la vita dopo una caduta sugli sci. E il titolo grande del giorno è: il governo non è del PD, è una dichiarazione del ministro Lupi che stoppa Renzi, non siete i padroni. Alfagnani in pressing su Letta, il premier rilancia meno tasse anche nel 2014, ma elite sul rimpasto. Ecco, questo tema delle tasse si ripercorre un po' in tutti i titoli dei giornali. La Repubblica apre: gli italiani, meno tasse, basta partiti, è un sondaggio di Demos illustrato da Ivo Diamanti, lo vedremo tra poco, in cui c'è questa richiesta forte da parte degli italiani di ridurre la pressione fiscale. Il giornale diretto da Alessandro Sallusti, proprio sulle tasse, dice: tasse le balle di Letta. Il premier aveva detto ieri che, citando appunto un'analisi della CGA di Mestre, aveva detto che nel 2013 le tasse erano diminuite, e Francesco Forte spiega come mai non sia vero. I dati lo smentiscono, dice Francesco Forte: con la sua legge di stabilità le imposte sono cresciute, unica eccezione l'IMU sulla prima casa, ma è merito di Forza Italia, sottolinea ovviamente il giornale, che anche come sottotitolo: Renzi vuol prendersi tutte le poltrone pubbliche. E all'interno, in terza pagina, c'è un'analisi sul fatto che ci sono in scadenza nel prossimo anno molti incarichi di vertice delle grandi società pubbliche, dall'Enel alla Cassa Depositi e Prestiti, dall'Eni a Saipem, alle Poste, a Finmeccanica, e ovviamente il governo e chi lo controlla, l'azionista di riferimento, cioè il PD, il potere, potremmo dire anche la necessità e l'obbligo di fare delle nomine, ma poi queste nomine siano politiche o di merito, di professionalità, ovviamente si dovrà vedere. Quindi questo è il giornale, che, come dicevo, ha un titolo grande: tasse le balle di Letta. È un articolo del lunedì di Francesco Alberoni, come ogni lunedì, e questa volta Francesco Alberoni parla: ecco perché serve un premier eletto dal popolo. Per frenare lo strapotere del Parlamento è necessario un forte e vero potere esecutivo. Anche qui il tema delle riforme istituzionali è un altro tema forte che si ripercorre sui giornali. E il Corriere della Sera ha come editoriale un articolo di Michele Ainis: troppe leggi, poche regole. E anche qui si parla appunto della necessità di riforme istituzionali. L'Italia, scrive Ainis, è un paese delle troppe leggi e quindi è un paese senza legge, quando ce n'è troppe. Poi dopo vince la legge del più forte. Il titolo grande del Corriere della Sera è: la lite sul bilancio del Partito Democratico, i renziani ora chiarezza, l'ex tesoriere in linea con i partiti partiti europei. Ecco, questo è un particolare della, diciamo, del dibattito, delle polemiche politiche. Renzi ha insistito molto per ridurre, per tagliare, se non per abolire del tutto, il finanziamento ai partiti. Ora i partiti sono comunque delle organizzazioni che costano e i rappresentanti del Partito Democratico, soprattutto quanti hanno fino ad ora avuto la responsabilità di gestire economicamente questo partito, ora dicono: ma noi comunque abbiamo gestito in maniera corretta, il partito è una organizzazione complessa che ha bisogno di finanziamenti, e ovviamente questo confligge con la filosofia di Renzi, che dice basta finanziamenti ai partiti, i partiti si autofinanzino, cerchino al loro interno, dai loro aderenti, i soldi necessari per poter funzionare. Sempre sul Corriere della Sera un articolo, se avremo tempo ne vedremo una piccola parte, di Riccardo Franco Levi sul semestre: tanta enfasi e possibilità quasi zero. Si riferisce ovviamente al semestre europeo che l'Italia dovrà guidare nella seconda parte dell'anno, e da dopodomani, dal 1 gennaio, sarà invece la Grecia ad avere la responsabilità di guidare l'Unione Europea. Sul Corriere della Sera anche il titolo, direi ovviamente doverosamente, alla grande scossa di terremoto che per fortuna non ha fatto riscontrare né danni né vittime né feriti a Napoli. La terra trema, paura e tutti in strada. E appunto, come vi dicevo, anche il Corriere della Sera inizia a sfogliare il 2013, le immagini che raccontano chi siamo. La prima grande immagine è quella di Nelson Mandela, la seconda immagine è quella dei due papi, di Benedetto XVI e Papa Francesco, che si abbracciano. Il coraggio di Ratzinger e la rivoluzione dei due papi, di Gian Guido Vecchi, che inizia così nelle pagine interne la storia in una frase: tra voi, tra il Collegio dei Cardinali, c'è anche il futuro Papa. Sala Clementino, Palazzo Apostolico, 28 febbraio 2013. Chissà che cosa avrà pensato l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, mentre un Papa ancora regnante, per la prima volta in 2000 anni, si rivolgeva direttamente al suo successore sillabando: già oggi gli prometto la mia incondizionata reverenza e obbedienza. Ecco, anche solo per questo il 2013 è un anno che passerà alla storia per un cambiamento profondo nella Chiesa. La stampa anch'essa ha un grande titolo dedicato alla politica, l'offerta del governo a Renzi, intervista a Franceschini, subito via il Senato e nuova legge elettorale, e qui c'è un ulteriore pressing verso il governo, anche se bisogna sottolinearlo, per esempio la legge elettorale non è tanto un compito del governo quanto un compito del Parlamento, e quindi il governo può certamente fare delle proposte, può certamente, anzi doverosamente, deve avanzare delle sollecitazioni, ma poi è il Parlamento che deve attuare quello che il governo propone, e la sovranità resta comunque del Parlamento. E quindi questa intervista di Franceschini, che è molto vicino, viene considerato molto vicino a Renzi, ministro peraltro dello stesso governo, dice: via subito il Senato e nuova legge elettorale, facciamo il punto sulle riforme, poi si potrà anche rafforzare la squadra. E ricordiamo, La Stampa era il giornale che ieri ha pubblicato un'intervista allo stesso Matteo Renzi, che appunto ribadiva la sua udicità, soprattutto dopo che Enrico Letta aveva cercato di fare quasi una di avere una visione comune, dicendo: noi adesso comandano i quarantenni, aveva citato lo stesso Renzi, Alfano e Letta, e Renzi dice: no, io non ho niente a che fare, avrò anch'io 40 anni, qualcuno meno in verità, ma sono diverso come storia politica dagli altre persone che appunto Letta ha citato. Entriamo nelle cose concrete con il Sole 24 Ore. Fisco, immobili, pensioni, ecco le novità del 2020. 2014, possibili tagli alle detrazioni, debutta la IUC, l'imposta comunale, più anni per l'assegno. La crisi costa un mese di consumi, scrive Il Sole 24 Ore di oggi. E poi fondi per le piccole e medie imprese, Bruxelles ha attivato tutti i programmi. Vedremo poi più avanti di approfondire questi temi del Sole 24 Ore. Tra l'altro c'è un editoriale di Fabrizio Garimberti sul barometro variabile della crescita. Vediamo magari immediatamente che cosa dice Garimberti per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'Europa. Il motore e il cuore dell'economia europea rimangono in Germania e la buona tenuta dell'economia tedesca promette bene per il futuro, scrive Fabrizio Garimberti sul Sole 24 Ore nell'editoriale di oggi. Negli ultimi 3 anni la domanda interna è finalmente cresciuta di più, non molto di più, di quella del resto dell'Eurozona, e questa tendenza dovrebbe continuare anche aiutata dagli aumenti dei salari minimi, che sono parte del governo della grande coalizione. Il problema, continua Garimberti, sta nel fatto che se il motore funziona, il cuore funziona un po' meno, nel senso che l'ossessione tedesca per i conti in ordine impone un'austerità controproducente al resto dell'area, e dalla Germania soffia quindi un vento contrario per la crescita degli altri paesi. L'Europa si trova quindi a metà strada fra lo scenario di mezzo e quello pessimistico, e l'Italia, in particolare, che non ha la forza di sollevarsi da sola, dovrà fare affidamento sul traino del resto del mondo per uscire dalla sua morta gora. Questa è l'analisi di Fabrizio Garimberti sull'Europa, Europa quindi che ha nella Germania il suo punto trainante, una Germania che però deve trainare appunto anche gli altri paesi, e l'Italia deve fare da una parte i propri doveri, rimettere a posto i propri conti, di fare le riforme, e potrà comunque anche approfittare del fatto che gli Stati Uniti, afferma Garimberti, sicuramente gli emergenti e in parte anche il Giappone hanno ormai iniziato un cammino solido di crescita e potranno anche trainare il resto delle economie. Ma l'Europa è certamente un problema, vi citavo appunto anche l'editoriale, il commento di Riccardo Francolevi sullo stesso Corriere della Sera che vedremo tra poco. Ma concludiamo un po' questa panoramica delle prime pagine dei giornali. L'Unità, Renzi, ultimo avviso a Letta, il segretario del PD: se si fanno marchette non si va avanti, io, Enrico e Alfano non abbiamo niente in comune. Il Messaggero: governo, si cambia a gennaio, Letta e Renzi lavorano al contratto di coalizione, dopo si aprirà il rimpasto, il premier amareggiato l'attacco del leader PD si difende, abbiamo tagliato le tasse. Sul Messaggero vi segnalo anche: Roma, turista non dà la mancia, gli sciamani lo aggrediscono. Arrestati tre bengalesi che chiedevano appunto la carità, organizzando, c'è una fotografia sul Messaggero, un piccolo spettacolo, ma di fronte a chi non la dava poi si sono un po' arrabbiati fino a passare a vie di fatto. Concludiamo con gli Oscar del Fatto, il Fatto Quotidiano. Il Fatto del lunedì dedica quasi tutto il numero a una carrellata sul 2013, sui tanti fatti che sono avvenuti nel 2013, anche con un po' di ironia e con un po' di distacco, guardando anche un po' in avanti a quello che potrà essere il 2014. L'editoriale di Ferruccio Sansa: Letta e C, arrivano i giovani o i nuovi vecchi? Con questo ci fermiamo un attimo, ci risentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Rieccoci qua a parlare del 2013 e del 2014, anticipati auguri di buon anno a tutti, ma ci risentiremo ancora domani mattina per gli ultimi giornali, quelli del 31 dicembre 2013, oggi guardiamo quelli del 30 dicembre, lunedì 30 dicembre. Vi avevo accennato al titolo di Repubblica: gli italiani meno tasse basta partiti, un sondaggio di Demos che commentato da Ivo Diamanti, che afferma: ma una società senza Stato. Ecco, questo sondaggio mette in luce le richieste degli italiani. Al primo posto c'è ovviamente l'abbassare le tasse, scusate, crolla la fiducia nei partiti e l'Europa non piace più. Sì all'elezione diretta del capo dello Stato. E Diamanti conclude questa sua analisi. Il paradosso: una società effervescente e in movimento in un paese senza riferimenti, sfiduciato di fronte a istituzioni senza fiducia, a poteri locali e territoriali sempre più delegittimati. Ma in effetti il contrasto è solo apparente, commenta Diamanti su Repubblica, perché la mobilitazione della società costituisce in parte una reazione alla sfiducia, riflette dunque la ricerca di risposte attraverso l'impegno personale e collettivo, senza rassegnare alla delusione. Insieme, perché partecipare produce legami sociali e di comunità. D'altra parte, la mobilitazione dei cittadini sottende anche una reazione di sfiducia contro gli attori e le istituzioni della democrazia rappresentativa. Un fenomeno canalizzato alle elezioni politiche dal Movimento 5 Stelle. Ma una partecipazione tanto estesa in tempi di sfiducia verso lo Stato echeggia un malessere diffuso, di cui emerge fra l'altro la protesta amplificata dei Folconi. Dietro a tanto movimento della società si intuisce il vuoto lasciato dagli attori e dalle istituzioni rappresentative. Non a caso quasi 3 italiani su 4 si dicono d'accordo con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, quasi un antidoto al distacco dai partiti e dai governi a livello centrale e sul territorio. Il clima antipolitico che prevale in Italia in questo passaggio d'anno, o forse d'epoca, scrive ancora Ivo Diamanti su Repubblica, evoca il vuoto della politica e al tempo stesso una domanda di politica molto estesa e altrettanto delusa. Non può durare a lungo tutto ciò senza conseguenze, ma per reagire in modo efficace a questa emergenza democratica occorre guardare nella direzione giusta, perché i nemici della democrazia rappresentativa non sono solo coloro che la osteggiano apertamente, ma anzitutto coloro che la tradiscono, perché la rappresentano in modo irresponsabile, senza efficienza e senza passione, senza dignità. È questo un appello in fondo di Ivo Diamanti alla dignità della politica, all'efficienza della politica, al fare della politica una cosa seria come dovrebbe essere. E questo appunto è quello che nasce un po' dalle attese degli italiani. Le attese degli italiani sono quelle di limitare la pressione fiscale, di limitare la corruzione politica, che sono visti come elementi di fondo che ostacolano appunto il cammino di crescita dell'Italia. Quindi questa società senza Stato, secondo proprio quanto pensano gli italiani, ha bisogno di avere uno Stato efficiente, non uno Stato oppressore, ma uno Stato efficiente che sappia anche guidare gli italiani verso la crescita. Questo può essere in fondo uno dei primi messaggi augurali che si possono avere per il 2014. 2014 che come si presenta? Restiamo su Repubblica con un articolo di Federico Rampini, I padroni dell'universo riconquistano Wall Street, e è una lunga analisi su fatto di un'economia americana che sembra ormai aver superato quasi di slancio la crisi, e con i grandi protagonisti, i grandi finanzieri che sono ancora non quelli, forse quelli di prima, ma le grandi istituzioni finanziarie che sono ancora in sella e che questi giganti dell'economia dominano, ma anche guidano verso la crescita l'economia americana e quindi l'economia mondiale. Leggiamo la conclusione di questo articolo interessante come sempre di Federico Rampini. Dietro un'economia americana che cresce del 3% e genera 200.000 nuovi posti di lavoro al mese, c'è questa finanza flessibile che ha liquidato in tempi record le scorie tossiche della crisi del 2008 e è tornata a fare il suo mestiere. La storia di come le banche americane si sono rimesse in piedi nel corso degli ultimi 4 anni è lo specchio riflesso, l'incontrario di tutto quello che non accade nel sistema bancario italiano, scrive Rampini, e lo vedremo tra poco. Quando le banche USA sembravano stremate al tracollo, al punto di affondare sotto il peso di investimenti sbagliati e crediti inesigibili, la prima mossa è stata la svendita a prezzi di liquidazione di tutta la monnezza che poteva impedire la riemersione. In seguito o in parallelo ci sono state le grandi ricapitalizzazioni. Le banche hanno cercato capitali freschi sul mercato aperto. Una delle prime operazioni la fece un personaggio emblematico del capitalismo USA, Warren Buffett, con il suo investimento salvifico in Goldman Sachs, fatto in un'epoca in cui sui mercati ancora regnava una sfiducia quasi disperata. Una volta ricapitalizzate, anche con l'intervento dei padroni dell'universo, le banche hanno riguadagnato la fiducia dei mercati, sono apparse sufficientemente solide da superare gli stress test degli organi di vigilanza e hanno ripreso a fare credito all'economia reale, famiglie e imprese, alimentando la ripresa attuale. Niente brindature degli assetti azionari, niente foreste pietrificate dai soliti noti. Questo, conclude Federico Rampini, su Repubblica, è il capitalismo americano, la macchina del mercato che ha ripreso a girare a pieno ritmo. E allora dall'America spostiamoci necessariamente in Italia con uno dei fatti di attualità degli ultimi giorni, che è quello del Monte dei Paschi di Siena. Federico Rampini ci parlava delle banche americane che hanno affrontato la crisi svendendo le partite incariate, ricapitalizzando, cercando capitali, quindi con una riforma molto forte. Noi abbiamo di fronte il Monte dei Paschi di Siena, che abbiamo visto sabato si è arenato, ha rinviato la ricapitalizzazione per volere della fondazione che controlla ancora il più del 30% del suo capitale. Ecco, sul Monte dei Paschi ci sono molte analisi, ne vediamo qualcuna. Viola e Profumo temono che senza di loro l'aumento sia impossibile, è il titolo della stampa dell'inserto Economia Finanza. MPS, la linea Mansi alla prova della borsa. E scrive Francesco Manacorda: il divorzio tra azionista di maggioranza e vertice dell'istituto apparirebbe quindi obbligato, se non fosse che Profumo e Viola, che in questi lunghissimi mesi nella trincea senese hanno stretto un buon rapporto, ritengono che sulle loro spalle pesi una responsabilità supplementare. Senza loro due, senza la credibilità sul mercato e la tesi su cui riflettono in queste ore, l'aumento che è stato fatto slittare a giugno rischia di essere non solo difficile, ma addirittura impossibile. E senza aumento, è ancora Francesco Manacorda sulla stampa, la banca non ha altra strada che quella della scomparsa come entità autonoma, inghiottita da un altro gruppo, sempre a patto che ci sia chi con molto coraggio e pochi soldi voglia avventurarsi in questa vicenda, o nazionalizzata. Proprio questa responsabilità potrebbe contribuire a tenerli, cioè Profumo e Viola, gli attuali dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, a patto che la fondazione sia dello stesso avviso. Lo scopriremo nei prossimi giorni, seguendo le mosse di una fondazione che rischia di celebrare una vittoria di Pirro e di due manager che ancora devono decidere se la peggiore sconfitta sia quella appena subita in assemblea o quella di un Monte che crolli. Con una postilla, conclude Francesco Manacorda sulla stampa, in questa guerra di potere e di contrade, Profumo è davvero scocciato di vedersi appiccicare addosso l'etichetta di uomo di cattivo carattere che lo segue dagli anni rampanti in Unicredit. Quello che ha subito seraficamente a Siena da quando è salito alla presidenza, ha spiegato spesso, dovrebbe servire per staccargli di dosso una volta per tutte quel marchio insopportabile che si porta suo malgrado cucito. Ecco, questo marchio, scrive Manacorda, di una persona spigolosa, in fondo difficile, con cui è difficile trattare, ma in questa fase Profumo ha avuto certamente il coraggio di sovvertire un po' le tradizioni, di cercare di mettere innanzitutto il primo posto l'interesse della banca e poi al secondo posto quello degli azionisti, cioè della fondazione, che peraltro non ha dimostrato negli ultimi anni di avere una sapiente e accorta politica di gestione. È un pasticcio che allarma l'Europa, test fallito per le banche italiane, il titolo di Repubblica dedicato sempre al Monte dei Paschi di Siena. Scusate, un mercato che non ama le sorprese, ne ha dunque avute due. C'è ancora lo stop, scrive Federico Fubini, parlando appunto delle reazioni internazionali alla realtà, a quanto è avvenuto a Siena. C'è stato lo stop al piano di Profumo, benché non fosse stato facile trovare investitori pronti a mettere 3 miliardi in una banca che ne vale solo 2 e viene da anni di perdite. Ma l'altra è stata l'interferenza della politica su MPS, mai rintuzzata da nessuno, anche quando il sindaco di Siena Bruno Valentini si pronunciava sulle ipotesi di dimissioni di Profumo. È il segno di un'Italia che non cambia, secondo molti, fuori dai confini. Ce n'è quanto basta per motivare l'irritazione di Tesoro e Banca d'Italia, che vigilano sulle fondazioni e le banche. che entrambi per mesi hanno chiesto all'ente MPS di non portare lo stallo a questo punto, ma nel paese dei mille campanili neanche la moral suasion di Roma basta più. Se l'Italia aveva bisogno di incoraggiare i capitali esteri a sostenere la ripresa del 2014, l'anno inizia decisamente con il piede sbagliato. È Federico Fubini sulla Stampa che commenta così le reazioni internazionali che appunto guardano a questa realtà certamente un po' paradossale di una banca che aveva tutto pronto per essere ricapitalizzata, quindi per essere in parte riavviata verso un sentiero di crescita, che invece questa ricapitalizzazione viene bloccata dalla fondazione che teme, secondo la sua prospettiva, indubbiamente con qualche ragione, di non contare più una volta che i soldi, ovviamente non avendoli lei, li dovrebbero dare gli altri. E allora la protagonista di questa vicenda, insieme ad Alessandro Profumo e a Viola, che sono i presidente amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, è Antonella Mansi, 39 anni, presidente della Fondazione MPS, vicepresidente di Confindustria, che da pochi mesi è al vertice della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, che come ricordavo controlla il 33% del capitale della banca. Ed è il Corriere della Sera che ha un'intervista alla presidente della Fondazione, dice: lavoriamo per restare nel capitale, la politica e l'istituto sono schemi vecchi e superati. E il nodo di fondo che poi ci si chiede in questi giorni è: ma a questo punto i vertici della banca, di fronte alla bocciatura del loro piano da parte dell'azionista di riferimento, cioè la fondazione, resteranno al loro posto? Ecco, sia Profumo e Viola hanno detto che prenderanno del tempo per decidere, non sono decisioni che si prendono a caldo dell'immediato, ma bisogna valutare non tanto il proprio interesse, ma l'interesse della banca, per non dire l'interesse dell'intero sistema finanziario. Il Monte dei Paschi di Siena è in fondo la terza banca italiana e non è poco, ed ha interessi ed ha sostegno anche a un'economia, quella soprattutto del centro Italia, ma attraverso Antroveneta anche del nord-est, di zone particolarmente importanti. Allora cosa risponde Antonella Mansi alla domanda esplicita: resteranno al loro posto Alessandro Profumo e Fabrizio Vrola? E risponde: non devo fare inviti, la nostra non è mai stata una forma di sfiducia. E Fabrizio Massaro, che conduce l'intervista, le chiede: secondo lei resteranno? Non lo so, mi auguro che lo facciano, perché la Fondazione e l'Assemblea non hanno criticato il piano con cui si sono impegnati, ne hanno solo chiesto l'applicazione differita di pochi mesi, sempre nell'ambito dei tempi dati dall'Unione Europea. Ma se Profumo andasse via, l'ultima domanda: ha già pensato a un sostituto? Non ho neanche fatto l'esercizio mentale. Voglio pensare che ci siano tutte le condizioni per continuare a lavorare insieme. Se poi ci saranno valutazioni personali differenti, ne prenderemo atto. Ecco, questa è sono le parole, in fondo una riconferma indiretta della fiducia ai due vertici, una fiducia però che non si è spinta fino ad approvare le loro posizioni. E ricordiamo che comunque le dichiarazioni di Profumo subito dopo l'assemblea, in cui è stato bocciato questo aumento di capitale, sono state per sottolineare l'incertezza in fondo in cui entrava la banca. Adesso c'era un piano già definito, un consorzio di garanzia anche per l'aumento di capitale. In futuro, quando secondo la fondazione si potrà fare questo aumento e la fondazione potrà trovare degli alleati sicuri con cui condividere le proprie responsabilità, ecco, nessuno potrà dire cosa avverrà a maggio o a giugno dell'anno prossimo. Cosa avverrà a maggio o giugno dell'anno prossimo lo vedremo magari in qualche particolare nell'ultima parte del nostro programma. Adesso diamo per un attimo la linea alle importanti notizie sul traffico. In primo piano. Buongiorno, eccoci qui per l'ultima parte del nostro programma. Non so se è già in linea Meazza. Buongiorno, buongiorno. Mauro Meazza. Buongiorno Gianfranco, buongiorno a tutti. Mauro Meazza, oltre che grande amico di Radio 24, ogni tanto fa anche la rassegna stampa e è anche responsabile dell'edizione del lunedì del Sole 24 Ore. Abbiamo già anticipato alcuni temi dell'edizione del lunedì dell'edizione di oggi del Sole 24 Ore. Mi sono anche permesso di leggere una piccola parte dell'editoriale di Fabrizio Galimberti, barometro variabile della crescita, ma il cuore del Sole 24 Ore è un promemoria di cosa avverrà nel 2014, cosa avverrà nel 2014 secondo il Sole 24 Ore. Mauro Meazza. Beh, abbiamo provato anche noi a fare l'oroscopo, sentivo che prima delle informazioni sul traffico chiedevi cosa succede a maggio-giugno. Maggio-giugno, ohimè, periodo di dichiarazione dei redditi, per allora il lavoro compilato con passione da Rossella Cadeo insieme a un buon numero di colleghi ed esperti segnala che quest'anno possono cambiare le quote per le detrazioni, quindi gli sconti. Però non ci sono solo cattive notizie, mi hanno contato 110 novità e c'è anche qualche cosa che potrebbe essere positivo, ad esempio una riduzione dell'RC auto se uno accetterà di montare questa scatola nera, provvedimento tutto da attuare, però insomma pensiamo positivo e cerchiamo di pensare positivo nel 2014. E poi naturalmente ci sono le cose solite, le tasse nuove, la IUC di cui si è tanto parlato con queste sigle un po', certo, astruse con cui dovremmo fare. Che è come l'araba fenice, che ci sia ciascuno lo dice, come sia nessuno lo sa ancora, mi sembra. E infatti stiamo cercando di decifrarla giorno per giorno. Ma poi ti volevo segnalare per gli amici fiscalisti, tu sai quando io parlo con Alessandro Milan sempre ho qualche pensiero per i miei amici fiscalisti, la rivalutazione anche di marchi e brevetti è un'opportunità importante del 2014, la spieghiamo nella sezione norme e tributi. Diciamo che non rischiano di perdere i posti i fiscalisti, i commercialisti, avranno molto da fare anche l'anno prossimo. No, di perdere la testa probabilmente sì, di perdere il posto non credo, di perdere il lavoro nemmeno, perché credo che stiamo cercando di dargli davvero, non solo noi ma in primis il Parlamento, un bel po' di cose da decifrare, quindi avranno modo di divertirsi sicuramente, non si annoieranno nel 2014. Quindi da agricoltura come a scuole e università, tutti i 100 punti che cambiano nel 2014 dalla bolletta della giustizia, resta la certezza che le tasse ci saranno, magari un po' meno da una parte, un po' di più dall'altra, qualcuno le pagherà, qualcuno non le continuerà a non pagarle, ma questo fa parte del gioco. Speriamo che siano sempre meno quelli che non le pagano e che chi paga paghi sempre di meno. Altre cose sul Sole 24 Ore, fondi per le piccole imprese. Molto importante questo, il 2014 è un anno europeo, perché non solo ci toccherà un semestre di presidenza da luglio, ma ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo, ci saranno delle procedure nuove. Chiara Bussi spiega oggi sul Sole tutte le date decisive di questo 2014 dal punto di vista europeo, e invece Enrico Brivio e la collega Cerizza hanno fatto un lavoro di segnalazione di tutti i bandi più importanti per le piccole e medie imprese, bandi che poi sono anche sul nostro sito sole24.com nella sezione di imprese e territori. È una cosa a cui stare molto attenti, perché spesso ci perdiamo delle occasioni, come scrive Brivio appunto nel suo commento di oggi. Certo, occasioni di crescita, tra l'altro nella zona internazionalizzazione, il Sole 24 Ore segnala che il 2014 sarà l'anno dell'Africa, sarà anche l'anno in cui tuttavia in prima pagina le famiglie dovranno continuare a tirare un po' la cinghia, la crisi costa un mese di consumi. Marco Biscella sottolinea che le famiglie italiane hanno dovuto tagliare dal 2008 a oggi quasi un mese di consumo, hanno lavorato 5 giorni in più per onorare i loro impegni con il fisco, soprattutto quello locale. Quindi diciamo anche qui, lo dicevamo anche prima, sulle tasse si dovrà continuare a lavorare almeno per larga parte dell'anno, non tanto per noi quanto per lo Stato. Un'ultima osservazione, oltre al tradizionale esperto risponde, c'è anche risparmio e famiglia che dedica la sua apertura alle carte di credito. In Italia sono ancora poco usate, Mauro Meazza. Sì, abbiamo come al solito le nostre pagine di approfondimento molto operative, molto basiche, si verrebbe da dire, cioè per spiegare proprio le carte di credito, i rischi, le opportunità, quello che a cui bisogna stare attenti, come si possono sfruttare. Ah, e poi naturalmente abbiamo la quarta guida alla legge di stabilità. Come sai, il Sole 24 Ore in questi giorni sta pubblicando delle guide ai contenuti della legge di stabilità, che è il solito serpentone con oltre 500 commi. E allora oggi parliamo di enti locali e pubblica amministrazione, domani spiegheremo cosa c'è per le case, per gli immobili in generale, quindi due argomentini per così dire non proprio facilmente digeribili che cerchiamo di smontare, di spezzare, di segnalare nelle loro varie applicazioni dentro questa legge che, come sappiamo, non è facilissima da comprendere. E allora l'appuntamento è domani, stessa ora, stesso posto, ci sentiamo anche per farci gli auguri di buon anno. Molto volentieri. Grazie Mauro. A te. Grazie a Mauro Meazza, caporedattore responsabile del lunedì del Sole 24 Ore, e andiamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa di oggi. Parliamo ancora un po' di Europa, lo facciamo, io avevo segnalato all'inizio un articolo di Riccardo Franco Levi sul semestre italiano. Si è molto enfatizzato in un certo senso il fatto che l'Italia nel secondo semestre dell'anno avrà la responsabilità di guidare l'Unione Europea. Ecco, Riccardo Franco Levi getta un po' di acqua sul fuoco e dice che, insomma, bisogna guardare un po' alla realtà dei fatti. Il cosiddetto semestre europeo inizia alla fine di ogni anno con la Commissione europea che presenta l'analisi annuale della crescita e si conclude entro i primissimi giorni di luglio con l'adozione formale da parte del Consiglio europeo, cioè dei capi di Stato e di Governo, delle raccomandazioni elaborate dalla Commissione sulla base dei programmi di stabilità e di riforma. Un'attività decisiva per il governo dell'economia europea che si concentra e si esaurisce quasi per intero nella prima parte dell'anno. Quella che scrive Riccardo Franco Levi, che nel 2014 coinciderà con la presidenza della Grecia, non dell'Italia. Anche la seconda ragione che spinge a ridimensionare le attese per il nostro semestre di presidenza ha a che fare con calendario. E di nuovo è il calendario europeo che conta. Le prime date delle presenti sono 4, 22 e 25 maggio, elezioni per il rinnovo del Parlamento, 26 e 27 giugno, Consiglio europeo a Bruxelles per la designazione dei nuovi presidenti dello stesso Consiglio della Commissione europea, 31 ottobre, scadenza del mandato della Commissione, presieduta dal portoghese Barroso, 30 novembre, scadenza del mandato del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, fino alla fine di novembre, quando mancheranno poco più di 3 settimane alla fine del semestre di presidenza italiana, la politica europea vivrà pertanto in uno stato di sospensione, in attesa di conoscere a chi saranno affidate le grandi istituzioni dell'Unione, nessuna delle quali, peraltro, con Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, potrà andare a un italiano. Ecco, questo è Riccardo Franco Levi, il semestre italiano dell'Unione, le cause di una presidenza limitata. Importante, indubbiamente, che l'Italia abbia un ruolo in Europa, ma cadrà questo ruolo in Europa in un periodo in cui ci potranno prendere poche decisioni. Queste poche decisioni non riguarderanno tanto l'Italia. E dal 1 gennaio c'è anche una novità sul fronte europeo, dedica una grande pagina al Corriere della Sera, è gli Stati Baltici, la Lettonia che entra nell'euro. Si parla tanto di difficoltà dell'euro, di disaffezione verso l'Europa. Abbiamo visto il sondaggio di Repubblica prima, l'Europa è uno dei punti in cui, che ha visto calare la propria fiducia, però ci sono paesi come la Lettonia, capitale Riga, che dal 1 gennaio entrano nella moneta europea, una moneta lettone che avrà moneta da 2 euro il volto di una fanciulla popolarmente conosciuta come Milda, che prima della seconda guerra mondiale era impresso sulle monete da 5 lats. La fanciulla simboleggia la libertà ed è una fanciulla anche con un filo di sorriso ben augurante. La Lettonia, dopo il miracoloso boom, è il 18° paese con la moneta unica e c'è una guida anche a conoscere questo paese, uno dei 3 paesi baltici insieme ad Estonia e Lituania, che appunto dopo la caduta del muro di Berlino ha scelto la democrazia ed ha scelto adesso di entrare integralmente, rispettando completamente i patti europei, ha scelto di entrare anche nella zona dell'euro. Sul Fatto Quotidiano vi ricordavo proprio riguardo all'Europa, volevo sottolineare un articolo di Fulvio Colombo che parla di 3 anniversari che si ricorderanno del 2014. Togliatti, De Gasperi, Berlinguer. De Gasperi morto nel 1954, Togliatti nel 64, Berlinguer nell'84. E Fulvio Colombo scrive: nel mondo delle notizie, dotato della memoria implacabile della rete, di tanto in tanto, mentre attraversi le news cercando il senso, ti sbarra la strada un anniversario. Per fortuna il 2014 porta tre ricorrenze che hanno per l'Italia un senso enorme: De Gasperi, Togliatti e Berlinguer. De Gasperi è il solo politico italiano che mi ha mai dato un'impronta internazionale alla vita pubblica italiana. E questo è forse interessante sottolineare. Ma volevo concludere, mancano un paio di minuti, con una ricordando quanto ha ricordato ancora ieri Papa Francesco. Permesso, grazie, scuse, le parole semplici di Papa Francesco, ce le ricorda Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera. Permesso, grazie, scusa, sono le tre parole chiave della convivenza che ieri mattina all'Angelus, nella festa della Sacra Famiglia di Nazareth, Francesco ha ripetuto e ha fatto ripetere ai fedeli in Piazza San Pietro. Quando in una famiglia non si è invadenti, si chiede permesso. Quando non si è egoisti, si impara a dire grazie, grazie. E quando uno si accorge di aver fatto una cosa brutta e sa chiedere scusa, in quella famiglia c'è pace e gioia. In uno dei suoi discorsi più alti del suo pontificato, quello sui peccatori di Aparecida a luglio in Brasile, il Papa aveva esortato a riscoprire la grammatica della semplicità. Quella semplicità senza la quale la Chiesa si priva delle condizioni che rendono possibile pescare Dio nelle acque profonde del mistero. In quelle tre parole, spiegava Bergoglio a Buenos Aires, c'è tutto. Definiscono le persone e costituiscono un compendio dei loro atteggiamenti, si legge nel libro Intervista al Gesuita. Chi non sa chiedere permesso si fa i fatti suoi, come se gli altri non esistessero. Chi non dice mai grazie nel suo cuore sente di non aver nulla a cui essere grato a nessuno. E chi non domanda perdono vive nel peggiore dei peccati, la superbia. Egoismo, chiusura in se stessa, insomma l'esatto opposto dell'atteggiamento che Francesco chiede innanzitutto alla sua Chiesa esperta in un cammino, ma raccomanda a tutti l'importanza della famiglia nel suo essere modello di convivenza universale. E conclude Gian Guido Vecchi: per questo Francesco ha ricordato ieri quegli esiliati nascosti che nella nostra società sono talvolta anziani e bambini, sia il dramma di migranti e rifugiati, milioni di famiglie in fuga da fame, guerra e pericoli e vittime del rifiuto. Bisogna guardare alla semplicità della vita della famiglia di Nazareth, anch'essa costretta a fare profuga, a farsi profuga. Le tre parole dicono tenerezza, aiuto vicendevole, perdono reciproco, ha scandito il Papa. Lo stesso Gesù ha voluto nascere in una famiglia umana, avere una madre e un padre, affinché nessuno si senta escluso dalla vicinanza amorosa di Dio. Permesso, grazie, scusa, le parole semplici di Francesco che ci richiamano alla semplicità, ma anche alla sincerità, alla tenerezza e alla comprensione. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.